onda, no? Non ti conviene fare invece che 7,5 farlo direttamente di 11. Ma io ne avevo solo 7,5 di metri che mi ha venduto oggi. Oh, mamma mia, non si prende mai il cavo giusto, capito? No, vabbè, comunque prova, ora ci vada bene lo stesso, però diciamo che la regola è quella. Ora provo una semionda, faccio 11 diviso 2 che mi dà 5,5 metri, ne taglio 2. E fai così. E per cercare di accordare meglio rispetto all'antenna, così me la piazzo fissa. Ma io dove la vuoi piazzare? Provo su una ringhiera, ho preso, come si chiama, ieri mi è arrivata una specie di scatoletta piccolina da 50 watt, ma non ne farà neanche 40, e la voglio provare per vedere se riesco a raggiungere sguccio un po' meglio. Ah, vabbè, cappagappa. Vabbè, comunque quelli della macchina sono, le antenne della macchina sono a 5 metri, quindi potrebbe anche andare bene lì. Cappagappa, dopo prova ad accordarla, se ci sono problemi, magari modifico la lunghezza dell'asta. E tu te l'avresti dovuto comprare almeno 11 metri per andare bene, capito? Poi se devi fare spezzoni, li fai a 90 cm o da 120. Capo, ma non avevano altro. Gli ho comprato gli ultimi 7,5 metri. Fusale non è più di cavo, lo devi ordinare. Ce l'ho io il cavo, quanto te la serve? Ne ho 20 metri io di cavo. Adesso volevo provare a portarlo almeno là e probabilmente mi bastano 5-6 metri, però, come dire, non so se bisogna usare multipli o sottomultipli. Ma io ce l'ho, te lo sto dicendo, se lo vuoi te lo do io, non c'è problema. Grazie, adesso domani faccio una prova e al limite te lo chiedo, grazie della disponibilità. Io sino a 20 metri ci arrivo, perché io l'ho messo, poi l'ho tolto e gli ho messo un altro tipo di cavo, però è nuovo. Sì, al limite mi interessa, adesso devo vedere un po', come si chiama, quando mi arriva la boomera mi devo fare un sistema fisso, da? E magari mi servono proprio. Ah, ti ho arrivato la boomera? La boomera della LEM, adesso la devo piazzare, così do la magnetica a sguscio, anche se non ci fa nulla da fissi, ma giusto per avere qualcosa di un po' più serio, e anche a lui gli ho detto di comprarsi una boomera o una Venom se può salire sul tetto. Era meglio la Venom della boomerang, perché è unidirezionale, invece la boomerang rimane tipo direttiva, tu dove la punti va. Cappa, ma io non posso salire sul tetto, te l'ho già detto. Sguscio, secondo me la Venom gli conviene mettersela. Sì, ma non è un'antenna grande, capito? La puoi mettere anche sulla ringhiera. Cappa, anche quello già è vero. Sì, vabbè, provo questa e dopo vediamo. E un apparato anche con le bande laterali mi devo procurare più avanti. E vabbè, piano piano, là. Piano piano si fa tutto. Cappa. L'importante è uscire e sentirci quando capita. Frutta, avanti. Sì, sono rientrato. Meglio della boomerang è la Venom, che almeno è omnidirezionale. La boomerang dove la punti va bene, e poi magari dall'altra parte no. Cappa. La macchina ero di passaggio lì. Sono passato in zona, vabbè, lì vicino alla stazione. E mi stava tanto caffetta, un bel insomma, è in alto lui, con la boomerang uguale alla mia, cioè, esce bene, si fa sentire dappertutto. È una bella zona quella della stazione. E poi in alto, capito, quel palazzo alto. Con la boomerang quella che c'ho giù, da uguale identica. Ed esce veramente bene. Qua mi arriva fotoscala. Vabbè, perché magari lui è anche in alto, oltre che cosa c'ha il palazzo alto, capito? Tante volte il palazzo che conta, lì proprio i 2 metri di tubo, ma se c'è il palazzo alto, sei sempre in alto. Cappa, confermo. E tacere a casa, André, come vai? Io sto lavorando da casa in questi giorni, c'è un progetto grosso che sto portando avanti e oggi è capitato che quel pomeriggio sto lavorando da casa. Ho capito, stasera non esci? No, stasera no, io sono adesso relegato fino almeno a tutta la prossima settimana, perché abbiamo una data di consegna e quindi devo lavorare a testa bassa. Ho capito. Allora, prima dove vuoi piacere? Sì, ma io non è che esca moltissimo alla fine, giusto qualche volta con qualche amico, e alla fine passo quasi tutta la giornata a lavorare, tranne me qualche finestra con voi. Ah, tu sei sposato, figli, no? Papà, sono sposato, ho due figli piccoli, da ancora se non prendo le scatole, e niente. Ah, capito. Vabbè, no, io uscivo sempre il fine settimana, venerdì e sabato, oppure magari venerdì stavo a casa, uscivo sabato, ma mi sa che adesso tiriamo un po' il freno a mano, perché poi quando arriva l'estate è diverso, esci di più, fa fresco, capito, si può fare qualcosa di più, ma adesso no. Settimana fuori, quando capita, è che quando c'è bambini piccoli c'è poca libertà, capito? Ti devi sempre tirare dietro. Speriamo che crescano in fretta, cosa che ti dica? Poi con questa storia del coronavirus, andare questi pussi chiusi, boh, io temo. Ma chi ha rotto calcoli siete? Alberto. Ah, sì, già è vero anche quello, Lo conosci? Convinto, va. Fiorello. Fiorello? già è bravo cantando, ma è convinto. Prima auguro a tutti, a Massimo Menis, a Nicoletta. Ma lo fanno apposta, sempre si, praticamente si punzecchiano anche su internet. Lo fanno apposta, gli dice di fare le canzoni, gli stivali a punta, e poi gli dice che c'è la riga in mezzo, tutte queste cose. Sì, lo so, già è fatto così, perché a me mi ha scritto, mamma mia, non canta più, non so cos'è, e te non so cantate come te, no? Infatti, che ne è convinto. Sì, faceva anche quando c'era lockdown, faceva Radio Gamaseno. Radio Gamaseno è praticamente, ci avevano fatto praticamente con la pubblicità dietro, ci avevano messo tutte le scritte in garage e faceva e cantava, capito, dal magazzino per trattenere la gente, gli chiedevano le canzoni e lui praticamente cantava su internet e le mandava. Non mi sento di essere simpatico, sono sincero. Mi stavo andando alla diretta adesso, 11 ore fa, incendio sulla nave Grecia-Italia. Terrore a bordo, cos'è successo? Questa notte HTTP, Era solo stamattina la novetta, ma non ci sono né ferite né morti, c'è stata, hanno avuto la fortuna che c'era un'imbarcazione della capitaneria che stava andando a trainare un'altra imbarcazione che si era bloccata, aveva avuto un guasto, e quindi li ha salvati tutti la capitaneria, se no erano i morti tutti bruciati. Casino, via. Un casino, ma i due fidati, via. Mancavano una decina all'appello, vi risulta, di passeggeri. Cosa? Perché mancavano 10 persone all'appello, 10 dispersi un'ora fa, è uscita questa notizia. Ma sulla nave? Scappa, nel sito del Fatto Quotidiano lo stavo leggendo, un'ora fa, 10 persone disperse. Allora, stamattina ha detto che non c'erano né feriti e né morti, tutti 50 persone dell'equipaggio sono state salvate, più tutti i passeggeri. Però praticamente 277 risultano salvati, almeno a Corfù, ed erano in tutto 288, quindi ci sono 11 dispersi, o secondo altri 14 dispersi. Sicuramente sono state rifatte i calcoli, le cose, perché stamattina ha detto che per fortuna non ci sono stati né morti e né feriti, così ha detto. Poi adesso quello che è successo dopo non te lo so dire, però se mi stai dicendo così vuol dire che è così, a meno che sia un fake, è solito di quelli che metto. Vabbè, il sito è quello del Fatto Quotidiano, quindi loro le notizie già le verificano. Possono aver sbagliato anche i conteggi nell'imbarco, alla fine magari si fanno tutte le verifiche. Non so cosa dirti, perché stamattina l'ho sentito io proprio prima mattina alle 8, ho acceso il telegiornale perché mi sono alzato presto, perché c'era peso che stava male, ho dovuto portare giù alle 7 di mattina, poi sono rientrato alle 8 e ho acceso il telegiornale. E fatto sta che praticamente hanno detto questa cosa qua, l'ho sentito proprio in prima mattina. Kappa, davanti Luca. Vabbè, adesso vedranno loro cosa fare, se sono dispersi è un casino, secondo me quelli sono morti. Sono bruciati, ci sono fatti in mare, sono bruciati, sono negati. Aspetta, se non li trovano subito dove sono? Per fuori in mare erano. È la più sicura, infatti. Vabbè. E che ci vuoi fare? Mamma mia. C'ho fame. Fame c'è. C'hai fame, dove la fa? È lì da due ore. E da voi? Cosa vuoi? Vai, ti do 10 euro, vai a comprare la pizza, va. Da voi la pizza. Da voi? Ah, mangia la pizza adesso. Potevo ti do il morto, sì. No, il peso non li mangia. Prima, quando era piccolo, mangiava, diciamo, quello che noi scartiamo attorno, che c'era una pizza. Il contorno mangiava, adesso non ne mangia più. Lo sai cosa gli piacciono? I cracker, quelli, come si chiamano? Non quelli salati, come cacchio si chiamano, adesso non mi viene il nome, vabbè. Comunque mangia i cracker, mi piacciono i cracker. Quali cracker? Quali già? Non mi viene il nome, già mi viene dopo. Ma fate biscotta? Cracker si uniso, cioè quelli con salati o non salati? Integrali, ecco, non mi veniva il nome. Ho avuto un coso, un attimo di abbaglio. Integrali. Buon gustaio, E quello è Giliardo, mangia carne e pasta peggio di me. Io a volte la sera mi cucino l'uova fritta e lui dà sempre carne da mangiare. Cappa, vabbè, meglio così. Ma no, perché non ne ho, perché a me le uova fritte con le cipolle mi piacciono. Pierludi, se no uova e asparagi, uia. A me le asparagi non mi piacciono. No, c'è a chi piacciono. Sì, la frittata con gli asparagi l'ho mangiata, però non è che mi attirano una cosa. C'è gente che proprio ci va matta, a me non mi attirano. E oltretutto ti fanno fare l'unica puzzolenza. Poi serreni. E il ferro che c'hanno, no? Hanno molto ferro gli asparagi. E comunque, niente, a me piacciono tantissimo le uova. Io, vabbè, ci facciamo qualche volta l'aggiunta, ci metto un wurstel, che li faccio soffriggere con la cipolla, e poi gli aggiungo anche la mozzarella sopra. Ma magari bisogna... State facendo venire la fame adesso. A me lo stesso, già la prima facevo così, le uova ultimamente non le posso mangiare comunque. Appena farò l'intervento, poi già me li farò. Faccio soffriggere le cipolle, poi una volta che sono belle rosolate, ci butto due uova e giro tutto, tra. Buona rediso. E poi magari ci metto un pizzico di ketchup. Gianni. Una spinatina, un panino, ui. No, io non le giro, io le mangio così, però già sono buone lo stesso. E tra l'altro giorno abbiamo preso i panini con i wurstel, lui. Quanto li paghi più o meno i panini con i wurstel? Perché siamo fatti magari a 7 euro un panino. Icchia, 3,50, massimo 4, dove fai questo? Sotto casa, dove c'è la pizzeria. Hai capito quale pizzeria? 7 euro l'uno, gli ho telefonato, ma c'è stato qualche sbaglio. No, sono aumentati i prezzi. Scusa, io ho guardato il volantino. Nel volantino c'è scritto l'altro prezzo. Dice sì, ma non abbiamo fatto niente a aggiornarli. Ma voi dovete fare i prezzi di volantino. Quando li aggiornate poi potete cambiare. Non posso io guardare il volantino che mi avete provato una settimana fa e adesso mi dite che c'è l'aumento. Ma sono avuti in dura, si fanno un pilare di più. Ma infatti non mi vede più, ha giocato la Grozzi, sta andando via Valletta che le fanno un bel buone. Dove ce la siamo noi già, ce le presento. Sono basta andare da Roberto via Napoli, costano 3,70 con i wurstel, con cheeseburger, hamburger, 3,70 fanno 4 euro, ma 4 euro l'uno, non 7 euro l'uno. Da Roberto? Sì, in via Napoli, parte di via Napoli, c'è Roberto. Non c'è la maglia, salendo da via Napoli, sulla destra rimane. Ma Roberto, perché è il fratello di Renato, quello che fa il panino? Esatto. Ah, ho capito. Perché le porta a casa? Mi sa che fa cucina a domicilio, non lo so. C'ho anche il numero. Ma davvero il numero che mi interessa questa cosa. E voglio vedere come va. Ma solo che da via Napoli arrivi a casa, si raffredda la pizza, Ma se vuoi, là, fast food, via Napoli da Roberto. Insomma, te lo giro il numero. Insomma, ti fa una scappatina, lo chiami, te li ordini, vai te li ritiri. Beh, certo. Per quel prezzo si può fare. Ma pagare 7 euro un panino con i wurstel, cipolle, allora cipolle, patatine, ketchup e wurstel. Così. Un panino che ho sempre pagato massimo alle feste lo pagavo 5 euro. Ciucuccio anche a te. Avanti ciucuccio. Guardi che poi sta prendendo il treno. Vabbè dai, io vi lascio, devo portare il cane, ci sentiamo ragazzi. Il dovere mi richiama. Ciao a tutti, buona serata, grazie per il questo. A domani. Ciao, a domani. Ciao, Gianni, mi sta aspettando, vuol dire la mangiare a Dea. E poi anche mi sposto. Poi c'è qualcuno più tardi, non lo so. Forse Antonio senta, ma invece Antonio stasera esce. Forse entro io più tardi, Luca, se rimani. Non lo so, anch'io adesso vado a fare la carica e al limite ci sentiamo. Tu rimani in ascolto. Ciao, allora, dopo, Già è acceso qua, nel caso faccio un fischio. Se c'è qualcuno, bene, se lo spengo e mi guardo la TV. Va bene, a dopo, buona cena. Altrettanto a te. Ciao, Luca. Ciao.